English Bit di Giulia Crivelli. Waste. Turnbull says Trump's wasting time with fake news complaints. L'agenzia di stampa Bloomberg ha titolato così un servizio dedicato al primo ministro australiano Malcolm Turnbull. Turnbull dice che Trump sta perdendo il suo tempo lamentandosi delle fake news. Oltre a fake news, letteralmente notizie false, termine che già nessuno traduce più, ci interessa l'espressione wasting time e il verbo to waste, regolare, to waste, wasted, wasted. In questo caso è usato proprio come faremmo in italiano, perdere tempo, wasting time, anche se waste letteralmente significa sprecare più che perdere. Come nella nostra lingua si può usare con la congiunzione con, non perdere tempo con lei, don't waste time with her, o with complaints, come nel caso di Trump. Se il riferimento alla perdita di tempo è un'azione, si usa il gerundio, anche in questo caso come in italiano. You're wasting time trying to explain it to him. Stai perdendo il tuo tempo cercando di spiegargli questa cosa. Anche il participio passato, wasted, presenta molte analogie con la nostra lingua. It was a wasted opportunity. Fu un'opportunità sprecata. You're wasted as a sales manager. You should be an actor. Sei sprecato come agente di commercio. Dovresti fare l'attore. Il sostantivo significa perdita, spreco, rifiuto. It seems such a waste to throw food away. Sembra un tale spreco buttare via il cibo. These meetings are a complete waste of time. Queste riunioni sono una totale perdita di tempo. They believe the statue is a waste of taxpayers' money. Pensano che costruire la statua sia uno spreco di denaro dei contribuenti. The farmers use both animal and human waste for fertilizers. I contadini usano sia rifiuti animali sia dell'uomo come fertilizzanti. I rifiuti di casa si chiamano household waste, mentre quelli delle fabbriche industrial waste. Segnaliamo infine alcune parole composte. Waste basket è il cestino dei rifiuti, anche della carta. In alternativa si può dire waste bin, che indica più facilmente il cestino dei rifiuti non differenziati che abbiamo in casa. Wasteland è letteralmente la terra perduta, anche nel senso di desolata, come nella traduzione del titolo del poema del 1992 di Thomas Stearns Eliot. The Desert Wasteland of Arizona, le terre perdute al deserto dell'Arizona. O in senso figurato, the mid-1970s are seen as a cultural wasteland for rock music. La metà degli anni 70 sono considerati una terra desolata per quanto riguarda la musica rock.